Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi abbiamo novità e notizie chiaramente sul settore auto, doppio fronte da un lato Volkswagen, dall'altro Fiat, due notizie molto diverse. Segnalo, poi ne parleremo ampiamente nel corso del programma, nella seconda ora soprattutto, segnalo che Fiat non a caso adesso ha preso a crescere del 2,42% Fiat Chrysler, poi c'è Finmeccanica più 2,12%, Telecom più 1,40%, Ferragamo più 0,90% come Prismian, Eterna anche, mentre resta negativa UniCredit del 2,35%. Barclays ha una banca d'affari che dà anche giudizi sui titoli, ha abbassato giudizio su UniCredit, ma al di là di questo ci sono tutto un insieme di dubbi sull'eventuale necessità di capitalizzazione per quello che riguarda UniCredit. Poi c'è la Popolare Emilia Romagna che perde l'1,90, Intesa l'1,70 come Saipem, l'1,60 lo perde Mediobanca, A2Amen 1,40 come Iux Net-a-Porter e Popolare di Milano, UbiBanca meno 1,30, Eni meno 1,20, euro a quota 1,06,54. Per quello che riguarda invece il numero per i vostri sms e whatsapp è il solito 349-238-6666. E ancora, per quello che ha a che fare con internet, c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Lo dico a chi sta scrivendo, oggi ci sarà la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione. Oggi ci concentreremo sul famoso petrolio italiano, il nostro giacimento culturale, artistico, archeologico, che con estrema difficoltà riusciamo a sfruttare ed estrarre, per usare la metafora o l'esempio figurato, per meglio dire. E ci concentreremo anche sulla nostra sanità, con casi abbastanza singolari. Detto ciò, andiamo avanti con le altre notizie. Per quello che riguarda l'economia internazionale, il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galdi, ha detto che di fronte a questi atti barbarici, riferendosi chiaramente al terrorismo dell'ISIS, la Banca Centrale di Francia e il settore finanziario sono determinati a combattere contro il terrorismo, prendendo severi provvedimenti contro i suoi canali di finanziamento. Dico subito che chiuderemo questa puntata come abbiamo iniziato la settimana, cioè parlando, ahimè, degli attacchi terroristici di Parigi e della parte economica che riguarda i terroristi dell'ISIS, e quindi come l'approvvigionamento, pur senza esagerare, ce l'ha spiegato bene lunedì Leonardo Maugeri, che non è vero che l'ISIS controlli i grandi pozzi petroliferi dell'Iraq, l'ho scritto anche su Sole 24 Ore. Detto questo, però, gli introiti dell'ISIS nel commercio sottobanco, nel traffico sottobanco di petrolio, viaggiano tra i 30 e i 40 milioni di euro al mese, che sono tanti, anche se non sono tantissimi, sono tanti per un gruppo terroristico. Invece, per quello che riguarda l'economia europea, oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha detto che faremo tutto il necessario come politica monetaria per centrare l'obiettivo di aumentare un po' l'inflazione il prima possibile. Il livello del tasso dei depositi, e quindi il fatto di portarli in negativo, i depositi alla Banca Centrale Europea, dove le banche dell'area euro mettono i soldi di notte e li riprendono la mattina, può rafforzare la trasmissione del piano di acquisto di titoli anche grazie all'aumento della velocità di circolazione delle riserve bancarie. In sostanza ha detto che il livello dei rendimenti o anche negativi di questi depositi può aumentare l'efficacia del quantitative easing, quindi dell'acquisto dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e delle banche centrali nazionali. Siamo in una situazione in cui non possiamo affermare con certezza che il processo di ripresa nella zona euro è completo. La crescita moderata e la dinamica dei prezzi implicano che dobbiamo monitorare da vicino se l'economia sarà in grado di raggiungere un percorso di autosufficienza in una condizione di stabilità dei prezzi. Se così non fosse, allora ci sarebbe bisogno di un maggior stimolo monetario che la BCE non esiterà a fornire. Nella riunione di dicembre saranno chiari la forza e i fattori che frenano il ritorno dell'inflazione al 2%. Se dovessimo concludere che il bilancio dei rischi alla stabilità dei prezzi nel medio termine risultasse inclinato al ribasso, agiremo avvalendoci di tutti gli strumenti disponibili nell'ambito del nostro mandato. Individuati i rischi alla stabilità dei prezzi, non ignoreremo il fatto che l'inflazione è già stata bassa per un lungo periodo. Guardando avanti, la politica monetaria resterà accomodante per tutto il tempo necessario ad assicurare un aggiustamento sostenibile nel percorso dell'inflazione. Ciò vuol dire che vogliamo essere sufficientemente sicuri che l'inflazione non solo converga, ma che si stabilizzi intorno al 2% nel medio termine. Se decidiamo che la traiettoria attuale della nostra politica monetaria non è sufficiente per centrare l'obiettivo, faremo quello che dobbiamo fare per innalzare l'inflazione il più presto possibile. Questo è quanto richiede il nostro mandato. That is what our price stability mandate requires of us. Allora andiamo avanti con le altre notizie al di là di Mario Draghi. No, una cosa però la devo dire, perché oggi è riapparso Weidmann, il capo della Bundesbank, della banca centrale tedesca, uno dei falchi, dei custodi dell'ortodossia della banca centrale europea, che loro vorrebbero sempre a modello della Bundesbank. Era un po' scomparso, forse doveva occuparsi di Deutsche Bank, mi sa che lì qualcosetta di cui occuparsi, anche chiarire come mai la Bundesbank non ha visto certe cose, perché è sempre interessante guardare quello che fanno gli altri. Poi la Bundesbank ci deve chiarire come mai non si era accorta dello scandalo che ha coinvolto anche Deutsche Bank sul Libor, la multe salatissime, il rosso di miliardi. Vorremmo sapere se la banca centrale tedesca è tranquilla sull'esposizione finanziaria, la qualità, diciamo, degli investimenti, così insomma. No, Weidmann si occupa più della BCE, perché dobbiamo essere chiari su un punto, ha detto: quanto più a lungo rimaniamo in questo modus ultra morbido, tanto meno sarà efficace questa politica. Il presidente Weidmann ritiene che comunque l'inflazione core, quella vera, si collochi già intorno all'1% e dovrebbe gradualmente risalire verso il livello ottimale. E quindi il basso prezzo del petrolio è un fattore di stimolo per l'economia, più che un fattore frenante dei prezzi al consumo. Comunque lui ritiene che l'inflazione vada bene così. Nel frattempo, sempre dalla Germania, veniamo a sapere che oggi c'è stato il consiglio di sorveglianza di Volkswagen, che si è riunito per stabilire e elaborare le strategie finanziarie per fronteggiare le conseguenze del Dieselgate. Il nuovo numero uno, Matthias Müller, ha detto: vogliamo uscire rafforzati dalla crisi. E ancora, per quello che riguarda invece sempre la vicenda Volkswagen, non commetteremo l'errore di risparmiare sul nostro futuro e quindi aumenteremo le spese dello sviluppo sull'elettromobilità, faremo di tutto per mantenere tutti i dipendenti a bordo. In den vergangenen Jahren hat Ihnen der Volkswagen Konzern an dieser Stelle regelmäßig. Negli scorsi anni, in questa occasione, il gruppo Volkswagen ha sempre annunciato investimenti record. Oggi, per il motivo che tutti conosciamo, la situazione è un po' diversa. Ma posso assicurarvi che continueremo a lavorare a pieno ritmo per superare questa crisi, proponendo soluzioni convincenti ai nostri clienti e per tutti coloro che stanno subendo le conseguenze dello scandalo Dieselgate, sul quale stiamo continuando ad investigare con impegno. Allo stesso tempo stiamo lavorando per far sì che il nostro gruppo possa rimanere un protagonista fondamentale dell'innovazione nel campo dell'ingegneria automobilistica. A questa logica risponde anche il piano di investimento per il 2016, rivisto alla luce di quanto successo. Abbiamo fissato un tetto massimo per gli investimenti a 12 miliardi. Questo significa un miliardo in meno rispetto alla media degli scorsi anni. Abbiamo effettuato una revisione dettagliata del nostro piano di investimenti. Tutto ciò che non abbiamo considerato assolutamente necessario verrà cancellato o rinviato. Lavorando in sinergia con i sindacati, faremo tutto il possibile per non dover licenziare nessun dipendente. Nei prossimi mesi dovremo lavorare duramente, ma sappiamo esattamente dove vogliamo andare. Vogliamo che il gruppo Volkswagen esca più forte da questa crisi e la revisione dei piani di investimento è coerente con questa logica. Die Neuausrichtung unseres Investitionsprogramms wird dazu ihren Beitrag leisten. Passiamo all'Italia, parleremo comunque dopo, ripeto, sia di Fiat che di Volkswagen. Nella legge di stabilità del Senato, come noi GR24 hanno già ricordato, ha votato la fiducia al governo, no dei verdiniani, si sono astenuti dissidenti del nuovo centrodestra, comunque sì, i sì sono stati 164, i no 116. Ancora per quello che riguarda il canone RAI, le prime rate non si pagheranno prima della bolletta di luglio. E poi per le province parte l'operazione mobilità, vedrem. Arriva la prima mappa del Ministero della Pubblica Amministrazione sui dipendenti delle province, per cui sta partendo il ricollocamento. Finora saranno coinvolte 15.000 persone, di cui 5.575 verranno direttamente prese dalle regioni e gli altri prese, nel senso che verranno assorbite dalle regioni. Le altre andranno all'Agenzia del Lavoro e poi invece 2.900 andranno in pensione, mentre la mobilità vera e propria riguarderebbe 1.957 persone. Ora, non devo io ricordare, ma lo facciamo volentieri, la nostra rubrica, o meglio, l'appuntamento e l'iniziativa lanciata da Gianluca Nicoletti, a cui chiaramente ha aderito tutta Radio 24 con vari programmi e iniziative, che si chiama Anche noi disabili, e continuate a scrivere denunciando discriminazioni sulle disabilità. Però faccio un appello anche agli imprenditori che ci ascoltano, a maggior ragione se sono manager di gruppi, perché il dato che sto per leggere è obiettivamente deprimente. I beneficiari di politiche di integrazione dei disabili sono state solo nel 2014 245 persone inserite nel mondo del lavoro, mentre nel 2013 erano state 1.700, quindi è un calo dell'85% di persone con disabilità a cui è stato permesso di inserirsi nel mondo del lavoro. Voi mi direte: è aumentata la disoccupazione? Sì, siamo d'accordo, però non a questi livelli, non c'è stato un crollo dell'85% degli occupati. Praticamente di tutti quelli che hanno beneficiato di politiche occupazionali, 936.000 persone, sono lo 0,02% dei beneficiari sono disabili. Lo dico anche perché ai manager o agli imprenditori che ascoltano vorrei ricordare una cosa molto breve, e cioè che uno studio dell'OCSE, basato sull'analisi di 10 grandi multinazionali, tra cui Adecco, Carrefour, IBM, Dow Chemical, L'Oreal, Novartis, ha messo in luce l'anno scorso come, se tu inserisci nell'organico del tuo gruppo di lavoro persone con disabilità, hai un effetto positivo, al di là del fatto che, diciamo, è un dovere e non è che lo fai solo per il ritorno aziendale, è un dovere etico, ma oltre a questo hai anche un effetto positivo nella dinamica aziendale. Quando viene seguito un corretto percorso di inserimento, migliora, ma è dimostrato dalla ricerca dell'OCSE sulle prime 10 multinazionali, migliora il clima complessivo della forza lavoro e anche la produttività complessiva e si riducono i livelli di assenteismo. Pensa un po', perché vedere una persona che con quelle difficoltà lavora probabilmente ti fa stare un po' peggio ad approfittarne, immagino io, oltre che un miglioramento del servizio offerto ai portatori di disabilità stesse, perché averlo, diciamo, nel luogo di lavoro rende anche il luogo di lavoro meno con meno barriere nei confronti delle disabilità, per cui insomma, peccato e sbagliato. Allora, mentre oggi scopriamo che i panettoni Cova, la pasticceria milanese di via Monte Napoleone, che fu comprata nel 2013 dal colosso del lusso francese Louis Vuitton Moanessy, ha inaugurato a Pechino un caffè, un ristorante e un gift shop, rientra nel percorso di sviluppo, a dimostrazione che quando ti comprano gli stranieri non è sempre male, anzi i casi che noi abbiamo sul lusso sono quasi tutti virtuosi, nel senso che tu non vai a comprare un marchio per distruggerlo ma per rilanciarlo. Nel frattempo oggi la Confesercenti diffonde un'indagine attraverso SVG il Politecnico di Milano, in cui si dimostra come l'e-commerce, quindi le vendite online, siano cresciute nel 2015 in Italia del 28%. Qui lo dico al mondo del commercio, muovetevi, chi non l'avesse fatto. Internet non è un solo un modo per scannerizzare un Deplian e metterlo su una pagina web, non funziona così. Hanno raggiunto i 7,2 miliardi di euro le vendite online quest'anno. Online fanno acquisti 17 milioni di italiani, l'11% in più rispetto al 2014. Ma tuttora solo un negozio piccolo su 10 vende su internet. Poi però lo dico ai commercianti, non vi lamentate se chiudete, cioè, o anche voi vi adeguate come licenze, come orari, come servizio al cliente, e anche vi mettete online. Guardate che nel rapporto che abbiamo fatto come sulle 24 ore emergeva chiaramente il dato di Confindustria Digitale, che nel 2013 il 48% delle aziende che hanno chiuso non erano presenti su internet, che vuol dire che quello è un elemento che ti aiuta. Solo un piccolo negozio su 10 vende su internet, e infatti l'impatto per i piccoli esercizi è più modesto. La maggioranza vede nelle vendite online un'opportunità. Una su tre teme che l'e-commerce faccia scomparire la rete commerciale tradizionale, che è una grandissima balla. Al momento solo il 12% dei negozianti vende su internet, il 38% prevede di farlo, il 42% non è interessato nemmeno in futuro. Auguri a questo 42%, auguri veri, perché o tu hai un tale posizionamento di nicchia, o se no, auguri. Allora, partiamo con la rubrica degli sprechi e delle assurdità di questo paese. Facciamo una cosa, meteo, pubblicità e poi la poco invidiabile classifica di Focus Economia. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. La classifica della settimana. Oh, eccoci qua alle 17:34 minuti. Ci stanno scrivendo alcuni ascoltatori su WhatsApp da Roma, perché di nuovo bloccata la linea A della metropolitana nella tratta da Battistini e Ottaviano. Adesso c'è l'assalto, mi scrivono appunto su WhatsApp, alle navette sostitutive. Allora, no, non posso aprire il tema dell'online. Io non sono d'accordo con chi scrive "ma ce lo vedi, ma ce l'hai sotto caso, frutti vendono che si mettono online". Non ho detto questo, che però tra i servizi che devi poter, è ovvio che frutti vendono che fa un lavoro di prossimità è più importante che abbia un orario adeguato al lavoro delle mamme, dei papà nel 2015 che magari non online. Però dico, il fatto che siano così pochi gli esercizi commerciali online eccezione fatta per alcuni, a me, secondo me, è un'opportunità che si perde. Comunque, detto questo, andiamo sulla classifica perché oggi ne abbiamo di casi e partiamo dal quinto posto, dove qui torniamo a occuparci della Reggia di Caserta. Ora, lo dico col massimo rispetto per le organizzazioni sindacali, abbiamo fatto gli stati generali della cultura come Sole 24 Ore a ottobre, in cui con il ministro Franceschini, il ministro Giannini, è emersa tra le altre cose la proposta di avanzata dall'industria della valle, che già l'ha fatto col Colosseo, di trovare 20 monumenti che possono essere adottati dagli imprenditori italiani, un mecenatismo di nuovo livello per aiutare, diciamo, il mantenimento e il miglioramento del patrimonio artistico di questo paese. Però io mi chiedo, come si fa a lavorare in un paese in cui i sindacati della Reggia di Caserta sono sul piede di guerra? Perché il nuovo direttore, uno di quelli scelti col concorso internazionale, si chiama Mauro Filicori, direttore della Reggia di Caserta, che non è che nel passato abbia mostrato grandi esempi di capacità, diciamo, di sapersi valorizzare anche per come era tenuta, una Reggia bellissima. Sono sul piede di guerra perché cosa è successo? Licenziamenti, esuberi, cassa integrazione? No, la possibilità, o meglio la comunicazione di servizio, che propone l'apertura della Reggia di Caserta a dicembre, il martedì e, pensate un po', nei giorni festivi di Natale e Capodanno, che è un affronto, perché tu la Reggia di Caserta giustamente la devi vedere lunedì alle 3 di pomeriggio, perché non lavora nessuno in questo paese, oppure la devi vedere il mercoledì alle 10 di mattina. Vuoi vederla con i tuoi figli, con i parenti, per Natale o a Capodanno, magari sei pure in zona perché non ti sei spostato, non hai soldi per... No, non puoi, perché hanno minacciato sciopero. Solo la UIL si è tirata fuori, quindi CGIL, CISL, FLP, Intesa, USB, UNSA, ma quanto cavolo sono ste sigle sindacali nella Reggia di Caserta, hanno chiesto un incontro col direttore. Queste aperture possono essere disposte solo con apposito progetto articolato con l'organizzazione sindacale di categoria. Filicori deve comunicarci come intende ridefinire l'organizzazione del lavoro, che ha annunciato appena si è insediato. È ovvio, immagino, che un direttore non sia così pazzo da non chiarire come organizzerà l'attività di apertura, ma è già il fatto che tu dica no, blocchiamo tutto. Tra l'altro, lo scorso maggio si registrò alla Reggia di Caserta un'affluenza record, 26.000 visitatori per Pompei, 17.000 alla Reggia di Caserta. È interessante, c'è anche un'interrogazione della deputata del PD Lorenza Bonaccorsi, che dice, insomma, si è appena insediato da poche settimane il nuovo direttore, subito i sindacati non perdono tempo per annunciare iniziative contro il cambiamento. Io vorrei capire, al di là della forma, certo che devi chiedere garanzie sui turni, ma qual è il motivo per cui diciamo, quasi tutte le sigle sindacali vanno sui piedi di guerra per l'apertura a Natale e a Capodanno? I problemi sono altri. Se non ti fanno aprire a Natale e Capodanno, perché non fa soldi la Reggia di Caserta. Hanno ragione, tu lavori festivi. Guardi, lei non sa quello che scrive. Radio 24 è aperta a Ferragosto, a Capodanno, a Natale, da quando esiste, il sabato, la domenica, con dei turni, vengono pagati gli straordinari. Sì, ci sono stato alla Reggia di Caserta, è bellissima, non era sempre tenuta benissimo, ma ci sono stato. Guarda, di cosa stiamo parlando? Andiamo al quarto posto, vedo che c'è chi non perde la verve polemica. Allora, al quarto posto, a me dispiace occuparmi della RAI perché non è mai elegante occuparsi della concorrenza, però visto che adesso ce ne occupiamo anche per il canone in bolletta e arriverà da luglio, allora, c'è un vecchio vizio qui, da quello che ci risulta vorrebbe mettere mano il neo direttore regionale Antonio Campo Dall'Orto. Sono le spese per le trasferte. Ora, chi vi parla, è brutto essere autobiografici, firma anche le note spese dei colleghi, e anche noi mandiamo i colleghi a Parigi in trasferta quando ci sono eventi che vanno coperti, e abbiamo un controllo, una politica interna abbastanza rigida, per essere eufemistici, sul quanto puoi spendere a pranzo, a cena, in albergo. Lo dico perché anche sto giro per seguire il G20 di Antalya in Turchia, quello che si è appena concluso, sono partiti dalla RAI in 12 persone per i telegiornali, perché un cronista per testata, più corrispondente e gli operatori con telecamera, 12 persone. Beh, dici, ma 12 persone un po' tanto per fare servizi che, lo dico con massimo rispetto, erano molto simili, perché non è che puoi modificare le notizie, ma altro che l'inviato unico. No, Il problema è che la spesa messa in preventivo è pazzesca, perché le tariffe per la stanza superano i 500 euro a testa, perché hanno scelto di dormire nei lussuosi alberghi a 5 stelle che stanno dentro la zona rossa, quella diciamo nell'area di sicurezza. Si chiamano Hotel Regnum e il Kaya Palace. Piscine, palme, letti suntuosi e vabbò, tanta invidia da parte nostra. I due giorni. Faccio notare che gli altri colleghi della stampa e delle dei media italiani dormivano in situazioni molto molto più prosaiche, con la paglia e il bue e l'asinello a 100 euro a notte. Erano alberghi fuori dalla zona rossa. Dentro la zona rossa ci sono solo questi due alberghi di super lusso. Poi, in realtà anche i 12 della RAI hanno dormito una prima notte lì, poi li hanno trasferiti nei 5 stelle a domenica e lunedì, evidentemente si trovavano male. Il motivo è che dentro la zona rossa risparmi tempo per i vertici, risparmi qualche minuto, e poi cavolo, io vorrei risparmiare non il tempo degli inviati, si svegliano 10 minuti prima, camminano 10 minuti, vorrei risparmiare i soldi dei contribuenti, visto che i soldi sono nostri, della RAI. E va bene, vedremo se adesso, da quello che si è saputo, appunto il direttore generale Campo Dall'Orto è furibondo per questa cosa, vuole una dettagliata relazione e promette che sarà l'ultima volta in cui avrai doppioni con spese così alte. 500 euro a notte non si può sentire per un giornalista. Andiamo al terzo posto della classifica, aumentando il livello degli sprechi. 1 milione di euro può costare un tram, un tram fermo 1 milione di euro? In Italia sì, in Sicilia sì, a Palermo sì. Che cosa è successo? Che il tram hanno praticamente realizzato le prime 8 vetture del tram pronte ad accogliere i passeggeri. Tra l'altro domani, proprio sabato, dovrebbe essere inaugurato. C'è un piccolo problema: la penale con la SIS, la ditta che ha realizzato i lavori, è di 30.000 euro al giorno per mantenere in piedi i cantieri a lavori finiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni giorno di mancata partenza del tram, al di là del mancato servizio, tu paghi 30.000 euro. Facendo le somme si rischia che con i tempi morti il comune di Palermo spenda 1 milione di euro per avere un tram fermo. Perché fermo? Perché il comune non ha ancora varato il contratto di servizio con l'AMAT, che è l'azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo. Deve essere il consiglio comunale a confermare l'indirizzo dettato dal sindaco Luca Orlando, che ha stabilito che l'opera resti in mano pubbliche. Ma non si riesce a introdurre una norma che, se tu come comune e consiglieri comunali crei un danno erariale ai tuoi cittadini, ne paghi anche tu in soldi? Cioè qualcuno dovrà pagare per un tram che costa 1 milione di euro perché sta fermo, rischia di costare, per ora costa 30.000 euro al giorno. No, non mi devo arrabbiare, non mi devo arrabbiare, perché adesso andiamo al secondo posto della classifica. Qua guardate, siamo quasi a un livello classico, cioè ci sono i medici, le cosiddette ex guardie mediche di tutta la Campania, che non si sono accorti che hanno ricevuto dal 2005 adesso un'indennità in busta paga che era stata soppressa. Cioè nel 2005 viene soppressa l'indennità di continuità assistenziale in favore di una ben più vantaggiosa indennità onnicomprensiva. Questo come effetto dell'accordo collettivo nazionale, del contratto collettivo nazionale. Vale per tutti i medici d'Italia, ma in Campania cosa succede? Le ASL, la maggior parte, non tutte, ma quasi tutte, continuano a pagare anche l'altra indennità. E qui è una roba incredibile, ma come? Cambia l'indennità, cambia la voce in busta paga, è anche più vantaggiosa. Tutte le ASL di questo paese si adeguano, in Campania bisogna sempre fare eccezioni, la diversità campana. Oh, vediamo cosa succede. I medici convenzionati dal 2005 in poi continuano a prendere due indennità identiche. Nessun medico alza la voce, guarda, magari c'è un errore in busta paga, mi state pagando due volte un'indennità che si chiama adesso onnicomprensiva, prima si chiamava indennità di continuità assistenziale. E vabbè, arrivano finalmente gli accertamenti, prima sulla ASL Napoli 1, poi li estendono a tutte le ASL della regione. La procura contabile ha contestato a titolo di dolo e o colpa grave a 50 persone, di cui 7 dirigenti della Regione Campania e 43 dirigenti funzionari delle ASL, la responsabilità di un danno erariale quantificato in complessivamente 10 milioni, dicesi 10 milioni di euro. Magari con 10 milioni di euro in Campania per la sanità qualcosa riuscivi a fare. Domanda, visto che parliamo della riforma Madia, adesso, ma nel momento in cui un dirigente della regione, un dirigente della ASL viene accusato di essere così incompetente, per non dire altro, immaginiamo solo l'incompetenza, da non aver visto che continuavi a pagare un'indennità e che era stata soppressa una nuova indennità, non sai fare il tuo lavoro, mettiamola così, non penso neanche a altre forme di corruzione, non sai fare il tuo lavoro, sei un incompetente, prendi e vai a casa, anche perché tutti, in tutto il resto d'Italia, i dirigenti delle AS quantomeno questa cosa l'hanno capita, li sospendi, li licenzi, no? Visto che non c'è molto da accertare, arrivavano in busta paga, stai doppia indennità, non è che dobbiamo aprire un dibattito e fare un processo, capito? E questo è, allora prendi e li sposti. Questo vorremmo vedere in un paese normale: li sposti, li mandi via, poi andranno a lavorare e a far danni da altre parti. Dopo il traffico, invece, uno dei casi che mi fa più imbestialire, visto che siamo partiti dalla Reggia di Caserta con subito la minaccia di sciopero se non vengono consultati i sindacati sull'eventuale apertura a Natale e Capodanno. Chiudiamo con un esempio analogo, una storia pazzesca in cui c'è qualcuno che vuole dare dei soldi a un'area archeologica importantissima in Sicilia, un imprenditore, e non riesce a versare questi soldi. Altro che mecenatismo culturale. Crocetta! Focus Economia. Ultima parte della classifica. No, vedo che molti stanno scrivendo su WhatsApp che hanno macellai che vendono online e offrono anche altro tipo di proposte. Addirittura un pescivendolo che su WhatsApp giustamente tutti i giorni manda una foto del pescato. E perché no? E perché no? Oh, sta con questo mondo del commercio che non voleva le ZTL. No, non chiudiamo i centri storici, vi ricordate? No, crolleranno. Gli affari sono aumentati e la gente va più volentieri anche a fare shopping. Su sempre questa difesa di retroguardia. Allora, mi dispiace per il travaso di bile di alcuni di loro. Andiamo avanti. Andiamo al primo posto, dai. Andiamo al primo posto, così leviamo sta pena che ho dall'inizio della classifica, perché sento che non so se ce la farò a non arrabbiarmi. Andiamo al vincitore. And the winner is... la regione Sicilia. Complimenti, governatore Crocetta. Adesso io vorrei sapere, io le racconto questa storia nel caso se la fosse persa, vorrei sapere come ne usciamo e qual è la scusa. Allora, mi date una maiella per favore, perché c'è un'azienda vinicola, si chiama Cantine Sette Soli, è uno dei più grandi produttori di vinicoli d'Italia. Il suo amministratore delegato, che è un ex amministratore delegato della multinazionale americana Procter & Gamble, siciliano, Vito Varvaro, abituato probabilmente anche alla logica americana in cui qua gli utili si distribuiscono, siede nel consiglio dell'appiaggio, è stato consigliere di Tod's, Bulgari, Marcolin, Bialetti, insomma un uomo che ha avuto grandi esperienze manageriali. Sicuramente non gli era mai successo questa cosa. Da 15 mesi Vavaro cerca inutilmente di sponsorizzare con 50.000 euro l'area archeologica di Selinunte. Vuole dare 50.000 euro a Selinunte, che per chi l'avesse visitata è una bellissima area archeologica, che però necessita anche di un po' di manutenzione, mettiamola così. Allora, il problema è che la regione Sicilia non sa come liberarsi di quest'uomo che vuole dare 50.000 euro al sito archeologico, e quindi è arrivata a sentenziare che non si può accettare una sponsorizzazione in mancanza di un regolamento regionale. Vediamo la vicenda. Siamo nell'estate del 2014, quando tutto comincia. Il fatturato della cantina Sette Soli supera i 50 milioni di euro. Siccome è un'azienda cooperativa e tre quarti degli abitanti di Menfi sono soci cooperativi, decide giustamente, bravi, di dare un contributo alla cultura e pensa a Selinunte, provincia di Agrigento, 13.000 abitanti, una delle aree archeologiche più belle del Mediterraneo. verserà direttamente 50.000 euro al parco archeologico di Selinunte Cave di Cusa da investire nei restauri, e poi si propone pure di fare la capofila del fundraising, cioè di raccogliere altri soldi usando la Sette Soldi come capofila per arrivare a 500.000 di euro per, da investire nel restauro, nel mantenimento di Selinunte. Tu dici, bene, mamma mia che bello in Sicilia, fundraising, uno che investe soldi. No, ma no, perché la regione autonoma siciliana non ha solo 24.000 dipendenti, li ha anche fatti in un certo modo. Allora, il direttore del parco, che si chiama Letto Barone, è d'accordo, dice, il comitato scientifico dell'ente è d'accordo, il sindaco di Castelvetrano, Felice Junior Errante, è d'accordo, l'assessore regionale competente, quello ai beni culturali, è d'accordo. Quindi siamo tutti d'accordo. Si arriva all'agosto 2014 dall'agosto 2014 arriviamo a febbraio 2015 e il dossier arriva sul tavolo del dirigente del servizio promozione Enrico Carapezza per il via libera definitivo. Intanto ci mette un mese e uno vorrebbe, perché un dirigente ci mette un mese a vagliare la proposta da 50.000 euro più fundraising su cui tutti sono d'accordo? Un mese! Ma ci metterai un giorno se fai il dirigente? No, un mese. Poi viene recapitata la Sette Soli dalla regione la comunicazione che la pratica si è bloccata. Come mai si è bloccata? Eh beh, è cambiato dirigente. Carapezza se n'è andato ed è arrivato un nuovo direttore generale, Gaetano Pennino, il quale solleva un problema. Bisogna fare una procedura a evidenza pubblica. Sarà cura del medesimo assessorato predisporre il relativo bando di gara sulla base degli investimenti finanziabili individuati dal parco. Ok, in alternativa la Sette Soli potrebbe versare dei soldi, ma non deve versarne più di 40.000, perché c'è una soglia, un sottosoglia addirittura. Cioè, uno vuole dare soldi, tu dici no, dammene meno, sennò devo fare un'intera procedura. Fai sta procedura, ti paghiamo per questo. I mesi passano, bando di gara neppure l'ombra. Caro direttore generale Gaetano Pennino, io non voglio sapere il suo stipendio, immagino che non sia basso. Posso sapere perché per mesi non siete riusciti a fare il bando di gara? Allora Varvaro, l'imprenditore, ingaggia uno studio legale. Visto che sul fronte regionale non si muove nulla, decide di intanto tirare fuori 40.000 euro e si prepara a una nuova offerta di puro finanziamento. Ma intanto è arrivata l'estate, sapete, d'estate, fa caldo, il traffico, tutto si blocca, anche le carte. Si arriva all'8 settembre, siamo partiti nell'estate del 2014, siamo arrivati all'8 settembre del 2015, data infausta per questo paese, tra l'altro. L'8 settembre i dirigenti dell'assessorato e i vertici dell'azienda si incontrano per mettere fine a questa vicenda. La parola fine viene pronunciata entro 15 giorni, garantiscono gli emissari della regione, non prima di essersi complimentati, perché per la prima volta in Sicilia, e te credo che la prima volta, si va avanti uno sponsor privato. Passano 15 giorni, non capita nulla. Passano tre settimane, non capita nulla. Trascorso un mese, la Sette Soli scrive, irritata l'assessorato, dice guarda che se non ci rispondi ci vedremo costretti a prendere atto di un'inspiegabile inerzia amministrativa, traendone le dovute conseguenze fino all'abbandono dell'iniziativa. A quel punto la regione risponde e dice, sapete che dice? Manca un regolamento regionale per le sponsorizzazioni, grazie tante, ma siccome non abbiamo fatto tempo a fare il regolamento perché abbiamo altre cose da fare, perché siamo solo 24.000, quanti sono i dirigenti della regione? 1.225 se non ricordo male, siamo solo 24.000 dipendenti e 1.200 dirigenti e dobbiamo capire che cosa fare, non abbiamo avuto tempo per fare il bando che deve regolare, chi deve decidere come si fa a finanziare la regione Sicilia e i suoi beni archeologici. Grazie, arrivederci. Uno fa notare che c'è il regolamento nazionale sulle sponsorizzazioni, no, perché la regione Sicilia è autonoma e vuole il suo regolamento, e quindi 40-50.000 euro che non arriveranno mai a Selinunte, piccola morale della favola. Fundraising per arrivare a 500.000 che non si farà mai, costi per l'azienda Sette Soli che nel frattempo ha dovuto pure ingaggiare gli avvocati, e un applauso a Crocetta e a tutti i suoi incompetenti dirigenti che dovrebbero essere mandati a casa subito. Non me ne frega nulla se mi querelano Gaetano Pennino e tutti gli altri che ho citato, spiegateci perché in un anno e mezzo non siete riusciti o a adottare la delibera nazionale, il regolamento nazionale, o a scriverne anche a mano uno voi. Un bel applauso, vai, 24.000 persone, 1.200 dirigenti nella regione Sicilia. Complimenti Crocetta. Dopo il GR24, l'imprenditore che ci dà un po' di fiducia, vicenda Volkswagen, e che manca, mi sono così arrabbiato che manco me lo ricordo più, oltre alla Volkswagen faremo anche la borsa, ci mancherebbe. GR24. Il segnale orario vi è offerto da stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per chiedimi se sono felice l'hai. Sì, sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il form dedicato all'evento. Ciao! State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti, non vi dico cosa sta arrivando su WhatsApp, come SMS, sull'ultima notizia, ma anche sul resto. Alcuni scrivono forse i dirigenti volevano le mazzette, ma no, guardate, questo non lo direi mai io, perché quella sarebbe querela. No, è l'incapacità di gestire la cosa pubblica con un numero pletorico, 1200 dirigenti, 24.000 dipendenti, questa è la Regione Sicilia. Ma poi devi cacciarli, devi dargli esempio, non siete stati in grado di raccogliere 50.000 euro di sponsorizzazione più mezzo milione? Ci avete messo un anno e mezzo per dire che non c'è un regolamento pronto, nessuno che lo scrive? Ricevo messaggi di gente che glielo scrive a mano, col sangue. E allora, a casa, via, arriveranno altri dirigenti. Non è vero che crei disoccupazione, licenzi un dirigente e ne prendi un altro bravo. Dov'è? Non è che in Sicilia manchino le persone brave, mancano la selezione delle persone brave. Vabbè, dottor Alberto Ferrarese, fondatore di BioSoil Expert, buonasera. Buonasera a lei. Mi aiuti lei. Allora, che cosa fa BioSoil Expert? Allora, BioSoil Expert si occupa di biotecnologie per l'ambiente. Ci rivolgiamo principalmente a due settori. Uno è la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'altra è la bonifica biologica e la riduzione degli inquinamenti in agricoltura, attraverso dei sistemi che consistono appunto in piante erbacee autoctone che vengono abbinate a dei microrganismi del suolo, e da qui appunto la biotecnologia, in grado di aumentare questi apparati radicali di queste specie vegetali per dare o un effetto stabilizzante a livello idrogeologico oppure andare a decontaminare i composti fitosanitari una volta utilizzati dall'agricoltore stesso. Allora, lei, lo dico a chi si fosse perso le puntate precedenti, il venerdì, dopo la classifica dei 5 sprechi della settimana, invitiamo sempre un imprenditore che invece ha lanciato un'iniziativa e si è rimboccato le maniche in questi anni di crisi. Quando siete nati voi? Allora, io assieme ad Andrea Zermignani e Paolo Campostrini ci siamo ritrovati nel 2009 dopo la laurea in biotecnologie presso l'Università di Verona. Da lì abbiamo creato praticamente società nel 2012 dopo aver vinto nel 2011 un premio di impresa sviluppato da Trentino Sviluppo. Da Trentino Sviluppo, perché esatto. In questi casi di startup noi abbiamo raccontato molte volte, e non solo al nord, anche ricordo Regione Puglia e altre regioni, in cui i soldi pubblici vengono utilizzati per agevolare la partenza di un'attività di impresa. Quanti anni avete voi, lei Ferrarese, ma anche noi Campo? Siamo tutti coetanei, abbiamo 31 anni, abbiamo 27 e faccio una precisazione perché oltre ai soldi pubblici noi abbiamo vinto diversi premi, oltre al GDT abbiamo vinto Agri Startup di Intesa San Paolo e siamo stati finanziati anche da un progetto Seed Money sempre della provincia autonoma di Trento, e all'interno della compagine societaria siamo partiti dall'inizio con dei business angel. Mi perdoni l'inglesismo, ma ecco, vedo che la voce sta girando, che in questo programma sono poco tollerati gli inglesismi. I business angel sono degli angeli, cioè sono privati che hanno di solito un certo patrimonio che usano questi soldi per fare decollare delle attività e seguirle, un po' come facevano i private equity ma con altre logiche e modalità. Prego, l'ho interrotta. No, praticamente abbiamo iniziato subito con loro, quindi non è stato un investimento dopo la creazione, ma sono partiti come nostri soci già nel 2012 praticamente. Ecco, a questo punto voi quante persone lavorano al progetto? Tra l'altro cos'è la chiodatura del terreno? Allora, la chiodatura del terreno è la stabilizzazione attraverso gli apparati fiscali del terreno stesso, quindi noi abbiamo creato questo... non lo usiamo molto come slogan, a dire la verità, perché sono delle componenti radicali, quindi delle radici che riescono a fermo il terreno nella parte superficiale. Quindi ci abbiniamo nell'ottica dell'ingegneria naturalistica, che è quel sistema che prevede, quella tecnica anzi, che prevede delle sistemazioni di versanti attraverso materiale vivo, quindi materiale vegetale. Allora, dicevo, quanti siete a lavorare nel BioSoil Expert? Allora, siamo tre soci attivi, più appunto i business angel. E età? Beh, l'età è sempre, dei tre soci attivi siamo 30 anni. Beh, no, quello ho capito, no, ma anche i business angel erano coetanei oppure no? No, assolutamente, no. Quando è che iniziate a guadagnare? Ma allora, in realtà noi abbiamo già iniziato a guadagnare, nel senso che il nostro settore di riferimento, il nostro mercato è legato principalmente agli enti pubblici. Noi lavoriamo sia con le province, con i geni civili, abbiamo fatto degli interventi anche per le reti autostradali e anche per i consorzi di bonifica e qualche privato. Abbiamo utilizzato 2 anni dalla partenza per andare a fare tutta una ricerca e sviluppo e certificare il prodotto, nel senso che noi andiamo a collaudare le radici come se fosse un elemento strutturale, praticamente con prove di tipo ingegneristico, e attivamente sul mercato siamo dal 2014, quindi abbiamo già iniziato insomma a fatturare. Ovviamente i tempi sono un po' lunghi, ma ci sono ottime prospettive. Allora, in bocca al lupo a voi tre, e anche per, io so che la chiodatura del terreno è una cosa, l'inchiodatura sul terreno è quello che mi stanno consigliando gli ascoltatori per i dirigenti, alcuni dirigenti siciliani, ma è un'altra cosa. In bocca al lupo anche a lei, Alberto Ferrarese, e ai suoi due soci Paolo Campostrini e Andrea Zerminiani, che hanno fondato BioSoil Expert. Oh, la borsa oggi priva di spunti, grandi spunti, e ci siamo fatta per Fiat, di cui parleremo fra un attimo. Finmeccanica più 2,50, Fiat Chrysler più 2,30, Telecom più 1,70, Terna più 1,40, Prismian più 1,20, Comesti Microelectronics, Ferragamo più 1,1, Banco Popolare più 0,80 come Enel Green Power. Invece sottotono Unicredit, c'è un report, un'analisi di Barclays che dice che mancano 7 miliardi di capitale a Unicredit, taglia l'obiettivo di prezzo, il titolo ne prende atto, diciamo così, meno 2%, poi Saipem meno 1,80%, Pop Media Romagna meno 1,70, Jux Entra Porte meno 1,5 come Mediobanca, e anche A2A perde l'1,5, Pop Milano meno 1,30 come Intesa San Paolo, Ubibanca meno 1%. La notizia oggi sui mercati è la frase di Mario Draghi che abbiamo fatto ascoltare all'inizio programma, quindi il fatto che andrà avanti con il quantitative easing, rendendo forse ancora più sconvenienti i depositi alla BCE, depositi bancari alla BCE. Moleskine, il peggior titolo, meno 7,30, El Venture Group meno 4,40, Gala meno 4,24%, Friendly Energy più 17%, Dime Group più 10%, Noema Life più 7,20%. Dopo il traffico parliamo di Fiat e dei finanziamenti ai terroristi dell'ISIS. Focus Economia. Parliamo di Fiat, dobbiamo fare una correzione sulla regione Sicilia, sui dipendenti, perché è vero, noi abbiamo detto 24.000, in realtà quelli dipendenti assunti, noi includevamo anche i precari, sono un po' meno, 17.000, ma sono un po' di più di quanto detto io, i super burocrati, i super dirigenti, sono 1.737 super dirigenti in Sicilia, 1.700. Con 1.000 persone l'abbiamo conquistata Sicilia, liberata dai Borboni e il resto, con 1.750 super dirigenti, non riusciamo a far finanziare 50.000 euro del sito archeologico di Selinunte. E va. Andrea Malan, al di là della Volkswagen che ha detto insomma non commetteremo l'errore di risparmiare sul futuro, oggi la notizia riguarda sia Volkswagen che Fiat, sono in chiaroscuro, o meglio Volkswagen alle prese ancora con un taglio di investimenti che porterà gli investimenti a un massimo di 12 miliardi per il 2016 e Müller dice faremo di tutto per mantenere i dipendenti a bordo. Fiat invece che ha annunciato Fiat Chrysler USA il rimborso dell'obbligazione che scadeva nel 2021. Vai Andrea. Esatto. Allora, per quanto riguarda Volkswagen, aggiungo solo a quello che hai detto che il taglio degli investimenti è in realtà rispetto al budget. Dovevano spenderne 13 miliardi l'anno prossimo, prima dello scandalo, ne spenderanno 12. L'anno scorso, in realtà nel 2014, ne avevano spesi 11,5, quindi è un taglio fino a un certo punto, è un po' un rallentamento. Teniamo presente che Volkswagen continua a essere di gran lunga il gruppo che investe di più in termini monetari. Poi che magari qualche concorrente investe in maniera altrettanto efficace, forse più efficace, è un altro discorso. Comunque Volkswagen si è preso un po' di tempo e tra 15 giorni ci sarà un nuovo consiglio di amministrazione e forse verranno annunciati in quell'occasione nuovi tagli, probabilmente una volta che si sarà capito un po' meglio quanto dovrà spendere Volkswagen tra multe e rimborsi ai clienti per quello che chiamiamo oramai il Dieselgate. Per quanto riguarda la Fiat invece, l'operazione orchestrata da Sergio Marchionne era attesa ma non così rapidamente, cioè Chrysler aveva emesso dei bond con scadenza appunto 2021, in più aveva una linea di credito da 1,3 miliardi di dollari, entrambi con delle clausole che in sostanza limitano la possibilità per il gruppo di spostare liquidità dagli Stati Uniti all'Europa. Questa è la cosa poi detto in soldoni che interessa Marchionne, interessa la Fiat nel suo insieme. Noi abbiamo un gruppo che nel suo insieme è indebitato al netto industriale per 8 miliardi di euro, quando in Chrysler ci sono invece quasi 4 miliardi di dollari di posizione finanziaria netta attiva, il che è un po' assurdo e fa sì che comunque nel suo insieme il gruppo debba tenere un polmone di liquidità elevato, 20 miliardi di euro, che costa e rende poco con i tassi di interesse attuali. Quelli attivi sono bassi, mentre quelli su alcuni bond, per esempio i bond di cui è stato annunciato il rimborso oggi, pagava l'8% Fiat Chrysler. Potete immaginare l'impatto sugli oneri finanziari. Marchionne, rimborsando adesso, dovrà pagare un po' di più, non è ancora chiaro quanto, ma arriva a fine anno con un bilancio diciamo ripulito e con la possibilità di spostare liquidità come vuole e di pagare eventualmente dei dividendi da questa crisi che, ricordiamolo, continua a essere la parte del gruppo che produce più utili. Più utili. Hai fatto bene a chiarire anche questo aspetto. Nel ringraziarti anche per la sintesi, perché non era facile tenere assieme la vicenda Volkswagen con quella Fiat. Auguro buon fine settimana anche a Andrea Malan. Ultimo tema, purtroppo, da dove siamo partiti, cioè lunedì con la puntata in cui ci siamo dovuti occupare dei finanziamenti dei terroristi dell'ISIS, rifacciamo il punto perché qualche novità c'è e soprattutto anche il lavoro dei nostri colleghi ha permesso di tracciare una mappa un po' più dettagliata. Allora, i bombardamenti russi contro i depositi di petrolio in mano all'ISIS hanno causato, secondo il Ministero della Difesa russo e il ministro Sergei Shoigu, danni per 1,5 milioni di dollari al giorno. Avrebbero distrutto negli ultimi giorni 15 depositi e centri di raffinazione di petrolio e 525 autocisterne nel giorno in cui viene confermato che la Russia sta interagendo con le forze francesi nell'operazione contro i terroristi siriani. Ma Roberto Bongioni, già collega del Sole 24 Ore, già martedì scorso aveva iniziato a tracciare la mappa dei finanziamenti dell'ISIS. Noi abbiamo raccontato come non sia vero, l'ha spiegato bene Leonardo Maugeri, che l'ISIS controlli i pozzi in principale dell'Iraq, sono in mano sciite, sono al sud. Però la mappa, se ce la vuoi riaggiornare, ahimè Roberto, insomma, vede l'ISIS disporre tra petrolio, tasse, ricatti, donazione, qualcosa di un patrimonio intorno ai 2 miliardi di dollari? Sì, 2 miliardi era la cifra stimata l'anno scorso, ha perso molti pozzi, ma è cambiato qualcosa di molto importante, perché se prima l'ISIS contrabbandava il petrolio attraverso le porose frontiere con la Turchia e col Kurdistan, oggi la Turchia sembra finalmente aver cambiato atteggiamento. Sarebbe ora. Sembra aver ridotto di gran lunga, ma l'ISIS purtroppo è riuscito, è stato molto scaltro il califfo tra virgolette Abu Bakr al-Baghdadi, perché ha voluto garantire una sorta di autosufficienza di questo embrione di Stato. E che cosa no, ha fatto? Stato no. No, no, anch'io sono d'accordo, sì, sono d'accordo no. Assolutamente, ho detto embrione, nel senso tra virgolette. Ma neanche embrione, è una cosa seria. Diciamo terroristi e basta. Quindi. Esatto, questo sorta di califfato. Cosa ha fatto lui? Ha creato una sorta di mercato interno, per cui come sopravvive l'ISIS col petrolio, per esempio, ne è molto meno. Lo vende su questo mercato interno, sia in questo territorio che controlla a cavallo tra la Siria e l'Iraq, che è esteso come la Gran Bretagna, sia anche nelle zone controllate dai ribelli. Poi vi sono le donazioni delle charity organization, soprattutto in paesi sunniti del Golfo, che hanno utilizzato una politica direi ambigua, perché da un lato dicono li puniamo, li definiamo terroristi come l'Arabia Saudita, dall'altro chiudono un po' un occhio. Queste donazioni adesso ultimamente sono fatte da piccoli soggetti che raccolgono denaro in contanti, in soldoni, e li portano nel territorio dell'ISIS. Chiudo dicendovi, ci sono poi i riscatti con cui guadagnano, le tasse non sono estorsioni ai danni dei cittadini, della povera gente che vive sotto il controllo. Ma la cosa interessante, immaginatevi che alcune di queste donazioni arrivano dall'Europa e tutti si domandano come mai non ci sono le transazioni bancarie. Ma se il terrorista mente degli attentati di Parigi è andato avanti e indietro, sì, tra Siria e Germania, portando addirittura il fratellino di 13 anni in Siria per farlo combattere. Immaginate, no, poi c'è quello... il padre era andato per cercare di in qualche modo di convincerlo. Non è... ecco. Cioè, un padre riesce ad andare giustamente a suo figlio a cercare di convincerlo, ma noi non riusciamo a beccare. Immaginate queste borse così. Ecco, queste donazioni anche dall'Europa avvengono come? Perché col canale bancario dubito, lì obiettivamente sei tracciato. Sempre, qualche volta si riesce, perché c'è stato un paese, soprattutto il Kuwait, che è stato una sorta di friendly environment. Penso nel senso, le sue, alcune banche kuwaitiane. Prima abbiamo liberato Saddam, vabbè. Adesso anche il Kuwait ha stretto un po' i controlli, perché ha capito, ha condannato adesso delle persone per trasferimenti, quindi sono fatti soprattutto in soldoni. Ma adesso bloccare i finanziamenti dell'ISIS è difficile, perché li fa con le tasse, col petrolio. Vi racconto solo un piccolo aneddoto che è divertente. Mi trovavo nel 2012 ad Aleppo durante la guerra, sul fronte c'era questa clinica che prendeva i feriti, molti cadaveri. Signore, che un aneddoto divertente con te ad Aleppo sul fronte di guerra, no. Tutto tranne che divertente. Certo, cioè, no, assolutamente non divertente. Sarà emblematico. Era divertente il seguito, quello che succede dopo, nel senso che per portare nell'ospedale, quella era una clinica d'emergenza, occorrevano le ambulanze. Le ambulanze c'erano, ma li portavano in barella per strada, non c'era la benzina. Ho chiamato qualche giorno fa un commerciante di Poldi, che è una grande famiglia, un sacco di negozi ad Aleppo, che è rimasto ad Aleppo, e gli dico: ma come va con la benzina? Ah, benissimo, abbiamo benzina dappertutto. Ma come è possibile? E la compriamo dall'ISIS. E ho detto: il tuo fratello, che è un miliziano di questa armata di Arman, che è pericolosa, è in guerra con l'ISIS, e fanno la guerra all'ISIS di giorno, ma di notte gli comprano la benzina. E poi c'è anche un ultimo tema, visto che parlavamo di come non riusciamo a sfruttare i nostri beni archeologici. Adesso non c'entra nulla il caso chiaramente della Reggio di Caserta e della Sicilia, però da saccheggi e contrabbandi, non è vero che li distruggono solo i monumenti, sti animali. Da saccheggio e contrabbandi di beni archeologici e opere d'arte, l'ISIS ricava circa 100 milioni di dollari l'anno? Almeno. E qui invece posso chiamare in causa la comunità internazionale, perché i controlli dovrebbero essere più serrati, e molti di questi beni non finiscono nei paesi arabi, finiscono anche in Europa, nei paesi occidentali, negli Stati Uniti. No, vuol dire che almeno si sappia che se vai a contrabbandare un bene archeologico, stai finanziando i terroristi e stai finanziando gli assassini. Anche non solo dei 128 francesi, nonché dei passeggeri del volo russo e quant'altro. Grazie a Roberto Bongiorni. Chiaramente non è bello, ma chiudere dove eravamo partiti in settimana, ma il tema purtroppo c'è tutto e ci sarà anche nelle prossime giornate. Intanto Sebastiano Berigioni le auguro un buon fine settimana, soprattutto perché dovrà passarlo lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Grazie come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio. Radio 24. La passione si sente.